Questo venerdì 22 giugno, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore, e tra l'altro vi segnalo oggi in edicola, da oggi, il nuovo numero del mensile Il, che fa servizi, la copertina è La guerra alle donne, e fa servizi sugli italiani e la casta, la crisi italiana, europea e mondiale, appunto, la guerra, la violenza sulle donne. Queste sono le tre tematiche più importanti che trovate nel nuovo numero di Il, con Il Sole 24 Ore. E a proposito dei titoli, iniziamo proprio dal Sole 24 Ore. FMI, cioè Fondo Monetario Internazionale, fondi europei per salvare le banche, questo è il titolo di apertura. Mentre La Stampa, parto da qui, oggi intervista insieme ad altri giornali europei Mario Monti. Monti, il 29 è in gioco l'Europa. Per il Corriere della Sera, Berlino, le condizioni sugli aiuti. Poi ci sono molti titoli sulla questione Stato-mafia. Il Fatto Quotidiano, Napolitano invoca il bavaglio, attacca alcuni giornali. Il Fatto è da giorni che punta su questa inchiesta. Repubblica, Stato-mafia, Napolitano non ci sta. Per il giornale Napolitano ha paura. Il Messaggero, Napolitano, sospetti sul nulla. Avvenire, l'alta di Napolitano ai veleni del nulla. Mentre Libero, non alzate l'IVA o chiude l'Italia. Questa è l'apertura. L'Unità invece, come altri giornali, si concentra sulla decisione di far assumere 145 operai FIOM alla Fiat di Pomigliano. C'è un giudice a Pomigliano, il titolo dell'Unità, mentre Il Manifesto, riassumendo, questo è il titolo di apertura. Io voglio però partire da questa polemica che ieri ho lanciato al mattino su Twitter e poi in giornata si è sviluppata. Non è escluso che lunedì ne parleremo. Allora, gli affari sono affari. L'Expo è alle porte. A Milano arriva il Dalai Lama, uno dei massimi esponenti del buddismo mondiale, forse il più importante. Milano doveva dare la cittadinanza onoraria al Dalai Lama, ma la Cina ha detto no, no, no, no, no. Altrimenti ci arrabbiamo. Potremmo evocare il vecchio film, credo, con Bud Spencer e Terence Hill. E altrimenti c'è l'Expo. E sapete, l'ultima edizione dell'Expo è stata in Cina, la prossima è a Milano. Chissà se veniamo ancora, se voi date la cittadinanza al Dalai Lama onoraria. Più o meno questi sono i termini della pressione. Risultato: Milano rinuncia alla cittadinanza onoraria al Dalai Lama. Milano delude il Dalai Lama, no alla cittadinanza onoraria. Tantissimi giornali se ne occupano oggi, a pagina 17 del Corriere della Sera ho letto questo titolo, ma anche Marco Alfieri sulla Stampa: Dalai Lama a Milano, Pisapia si piega ai diktat di Pechino. Il timore di una non partecipazione della Cina ad Expo 2015 ha portato alla sospensione della cittadinanza onoraria al Dalai Lama. Come spesso avviene, scrive Alfieri, il dio denaro ha il sopravvento sulla democrazia e la libertà dei popoli. Questa è la sintesi dell'ultimo pasticcio politico diplomatico dal vice capogruppo del PD in provincia, Roberto Caputo. Anche Libero, Pisapia pensa ai soldi e vende il Dalai Lama ai suoi amici cinesi. Tra l'altro, addirittura la Padania mette Pisapia vestito da Mao Zedong. Sta di fatto che anche Repubblica va a intervistare Dario Fo, e Dario Fo qua fa un'intervista spettacolare. Ma come lui, Nobel per la letteratura, così come Nobel per la pace è il Dalai Lama. Però fa questa intervista zitta Dazzi, in cui, arzigogolando, certo è affranto, gli dispiace molto umanamente per il Dalai Lama, ma fa capire che, insomma, le ragioni di mercato, la Cina, l'Expo, non c'era altra scelta, così Dario Fo. Sembrava cosa fatta, ma è colpa del potere di ricatto della Cina. Vorrei capire cosa è successo, ricevo telefonate da tutta Europa, e Dario Fo che parla a Repubblica. E poi dice: il comune alla domanda doveva opporsi ai ricatti della Cina? È un conto è parlare da privato cittadino, come faccio io e mia moglie Franca, un conto è amministrare una grande metropoli alla vigilia dell'Expo. Insomma, Dario Fo dice come faceva Pisapia. Le scelte della politica sono sempre difficili, con la Cina ci sono rapporti delicati e importanti, credo sia stata una scelta sofferta sotto una pressione esterna pesante, col rischio che la Cina non partecipasse ad Expo. E Milano non può permetterselo, ma io in coscienza dico che il Dalai Lama ha tutta la mia stima e solidarietà. Già adesso la stima, la solidarietà, gli abbracci, però gli affari sono affari, ecco, questo è il concetto. Comunque, niente cittadinanza per il Dalai Lama, che sarà, credo, settimana prossima. Ora si tenta il gesto riparatore, che ne so, lo si farà parlare in consiglio comunale, gli si darà la cittadinanza Buccinasco, che non è proprio Milano, ma insomma è alle porte, una semicittadinanza, non lo si sa, staremo a vedere. Due segnalazioni prima della pubblicità sul tema spending review, la revisione della spesa. Attenzione, il Messaggero dice che, cari statali, pare che ci sia il taglio del ticket pasto, o meglio l'uniformità, ridotti a 5-7 euro per tutti gli statali buoni pasto. Questa è un'ipotesi, non è che è una certezza, è un'ipotesi allo studio. La spending review, buoni pasto ridotti a 5-7 euro per tutti gli statali. I sindacati sono già sul piede di guerra. Sta di fatto che questa è una delle ipotesi, ma la cosa più interessante sul tema revisione della spesa la racconta il giornale a pagina 12. Pare che sia successa questa scena. Voi immaginatevela. 5 dipendenti del Ministero dell'Economia scendono in cortile per fumare una sigaretta. Passa il super commissario Enrico Bondi. Li vede e non dice nulla. Poi passano i minuti, 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora. Enrico Bondi vede, sono ancora lì. Ma come mezz'ora dopo per la sigaretta? Al che Enrico Bondi, il super commissario, si avvicina a questi 5, scende in cortile e senza troppe scenate fa: i vostri nomi e cognomi, grazie. Annota i nomi e cognomi, non dice nulla e se ne va. Pare che da quel momento il cortile del Ministero dell'Economia sia diventato deserto. Sigarette abolite, pause, insomma, mezz'orate di sigarette abolite e Enrico Bondi, ma grande Bondi, cioè voglio dire, mi viene proprio dal di dentro da elevare un applauso a questa scena di Enrico Bondi, che ha detto nomi e cognomi, grazie, e se n'è andato via. Chissà se è successo veramente, chissà se è una leggenda. In ogni caso, il super commissario Enrico Bondi sta per colpire, chi lo sa. Ci sentiamo tra 5 minuti. 24 mattino. Eccoci qua. Allora, oggi, per quel che riguarda l'Europa, c'è un vertice a 4 in Italia, importante, molto importante, visto che ci sono Monti, Merkel, Hollande e Rajoy, quindi Italia, Germania, Francia, Spagna. E allora per questo, intanto il Premier Monti ha fatto un'intervista a 5 giornali internazionali, uno è La Stampa e poi uno tedesco, uno spagnolo, uno inglese, uno polacco e uno francese anche, quindi sono 6-7, quanti sono? Insomma, tenete il conto. In ogni caso, sulla stampa potete trovare l'intervista a Monti, che si rivolge intanto a Herr Müller, cioè il signor Müller, che, come dire, il signor Rossi in Italia, cioè un ipotetico tedesco. Risponde così a una domanda. Prima però intanto parla di Germania e Francia e racconta Monti, dice: c'era una volta, come si direbbe nelle fiabe, Francia e Germania. Continueranno ad esserci, l'accordo tra di loro è condizione necessaria per i progressi dell'Unione Europea, tuttavia è sempre meno una condizione sufficiente. L'Italia da tempo avrebbe avuto ragioni per essere considerata sia da Francia e Germania quasi altrettanto rilevante. Perché dice quasi, Premier? Perché dico quasi? Perché l'armonia di questa coppia è interesse vitale per tutta l'Europa, come la storia ci ha insegnato. Negli ultimi anni l'Italia non era sollecitata a coinfluire nel processo con gli altri due, ma al suo nascere l'attuale governo italiano ha goduto di un'apertura da parte della Francia di Sarkozy e della Germania di Angela Merkel. Ecco qui la domanda. Allora, se avesse 10 minuti per convincere un ipotetico Herr Müller in Germania circa la bontà degli sforzi dell'Italia, cosa gli direbbe? Allora Mario Monti si rivolge così: caro Herr Müller, anzitutto rilassati, perché ti sei convinto, o ti avranno convinto, che tu stai mantenendo un eccessivo tenore di vita degli italiani. Guarda, non è così, perché non ci sono stati finanziamenti all'Italia. Non arrivo a chiederti di credere al fatto che i tedeschi stiano traendo vantaggio per il fatto che la Germania riesce a finanziarsi a tassi così bassi, anche come effetto speculare degli alti tassi degli altri. E gli direi: caro Herr Müller, convinciti di ciò che la cancelliera del tuo paese da qualche tempo dice, cioè che la Germania trae grandi vantaggi dall'integrazione europea. È vero, essendo l'economia più grande, paghi un po' più degli altri in termini di bilancio dell'Unione, che comunque è l'1% di tutta l'economia europea. Ma guarda che l'economia della Germania, che funziona perché voi tedeschi siete molto bravi come lavoratori, risparmiatori, siete ben governati, tra gli ingredienti del suo successo negli ultimi 50 anni ha quello di essere al cuore di un grande mercato unico e ha un altro vantaggio. Da 10-12 anni è al centro di una zona di stabilità monetaria, mentre prima avevate svalutazioni competitive che vi penalizzavano. E anche noi italiani abbiamo avuto molti vantaggi nell'essere associati con voi tedeschi, perché un po' per volta abbiamo importato la nostra e la vostra cultura della stabilità. Monti poi sorride e dice: come vedete, ho spiegato tutto in meno di 10 minuti. Magari lui avrebbe anche qualche domanda da farmi, ma una seconda birra sarei ancora più persuasivo. Avete capito? Questo è Monti che si rivolge così a Herr Müller, il cittadino tedesco, diciamo tipo, no? Un ipotetico cittadino tedesco. Monti, Herr Müller può fidarsi dell'Italia. Questo infatti è il titolo dell'intervista che trovate a pagina 2 e 3 della Stampa. In ogni caso, in qualche modo il Corriere risponde intervistando il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle, che dice: l'Italia resta competitiva, l'euro non è reversibile. Trovate l'intervista a pagina 5 fatta da Paolo Lepri. Credo che l'Italia sia un paese competitivo e di successo, ciò vale anche per la Spagna, dice Westerwelle. Questi paesi hanno prodotti conosciuti nel mondo, ce la faranno mettendo in atto le riforme strutturali già avviate. Tanti dimenticano che anni fa la Germania veniva presentata dai giornali come il malato d'Europa. Tutto poi è cambiato molto velocemente, le riforme attuate dai vari governi hanno migliorato la competitività della Germania, hanno ridotto in maniera significativa la disoccupazione. Cioè ci dice Westerwelle: se agite, ricordatevi che si possono fare le cose, visto che anche la Germania era il malato d'Europa qualche anno fa. Ecco, certo che queste sono le interviste, le dichiarazioni ufficiali, poi come al solito ci sono i retroscena. Allora, in questo vertice di oggi, la verità è che, scrive per esempio il Sole 24 Ore con Gerardo Pelosi, Monti chiederà a Merkel una svolta anti-spread. Gli eurocatastrofisti, scrive Pelosi, rimarranno forse a bocca asciutta oggi a Villa Madama nel vertice. Non ci sarà l'atteso o temuto assedio della cancelliera da parte di Italia, Francia e Spagna. Sarebbe troppo semplice. Non siamo a una riedizione del vertice al Castello Sforzesco di Milano dell'85, quando la Thatcher cercò di bloccare inutilmente la conferenza intergovernativa per la creazione del mercato interno e fu messa in minoranza. Ma certo ci saranno delle richieste ad Angela Merkel. Per esempio, secondo il retroscena di Repubblica, Alberto D'Argenio, ci sarà più che una richiesta, un vero e proprio ultimatum di Monti alla Merkel. Cedi qualcosa o il mio governo rischia. Voi dovete ricordare le parole che quale ex ministro Brunetta ha detto qualche giorno fa, o il 28 al Consiglio europeo, Mario Monti ribalta il tavolo, ha questo coraggio di ribaltare il tavolo ad Angela Merkel, oppure per noi è scaduto. Chiaro, Brunetta fa parte dei cosiddetti falchi del Popolo della Libertà, ma questa è una sensazione che è abbastanza diffusa all'interno del partito ancora di maggioranza in Parlamento, cioè il Popolo della Libertà, e cioè di dare un po' il tempo di segnare delle scadenze a Mario Monti. Ecco che allora, secondo Repubblica, Mario Monti oggi dirà questo ad Angela Merkel: faccia qualche concessione, altrimenti per me il 28-29 giugno potrebbero essere le date non solo del Consiglio europeo, ma di una maggioranza in Parlamento che mi guarda e mi osserva per dire: caro Monti, il tempo è scaduto. Sta di fatto che staremo a vedere per quel che riguarda questa situazione europea e anche questo vertice di oggi. Venendo alle cose italiane, ormai è sempre più ampio lo spazio che i giornali dedicano a questa vicenda della presunta trattativa Stato-mafia, le telefonate tra Nicola Mancino, il consigliere giuridico del Quirinale D'Ambrosio, e il possibile addirittura coinvolgimento, qualcosa che va a lambire il capo dello Stato Napolitano, che secondo per esempio il Fatto Quotidiano potrebbe essere intervenuto per influenzare questa inchiesta della Procura di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Allora, Napolitano ieri ha parlato: basta sospetti, basta insinuazioni, così trovate l'articolo di Dino Pesole a pagina 13 del Sole 24 Ore. Ma certo, secondo il giornale, per esempio, il titolo d'apertura è questo: Napolitano ha paura, e cioè le telefonate, due telefonate di Napolitano sarebbero finite agli atti, per la verità nei brogliacci, dovrebbero essere distrutte, ma ci sarebbe due volte la voce del Presidente della Repubblica intercettato a parlare con l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, indagato per questa trattativa. Beh, il PM che indaga, uno dei PM che indaga, Nino Di Matteo, uno dei titolari del fascicolo intervistato da Repubblica, da Alessandra Ziniti, dice: l'indagine è in gran parte pubblica, non ci sono solo le intercettazioni. Noi siamo assolutamente tranquilli, determinati ad andare avanti, eravamo consapevoli che la ricerca della verità non sarebbe stata indolore, dovevamo fare conti con chi anche nelle istituzioni oppone reticenze, silenzi, incomprensibili ritardi nel rendere dichiarazioni sui fatti. La legge è uguale per tutti, dice il magistrato. E poi la telefonata sulle conversazioni che riguardano direttamente Napolitano dice: negli atti depositati non c'è traccia di conversazioni del capo dello Stato e questo significa che non sono minimamente rilevanti. Quindi verranno distrutte? La domanda. Noi applicheremo la legge in vigore. Quelle che dovranno essere distrutte con l'instaurazione di un procedimento davanti al GIP saranno distrutte. Quelle che riguardano altri fatti da sviluppare saranno utilizzate in altri procedimenti. Sta di fatto che su questo ci sono diversi commenti, ve ne segnalo due. Il primo è del direttore del Fatto Quotidiano, il giornale che più appunto spinge su questa inchiesta, Antonio Padellaro, titola: il totem sul colle. Nella storia repubblicana essere bersagliati da critiche e campagne di stampa è capitato a molti inquilini del Quirinale, a Gronchi, i comunisti rinfacciarono di aver agevolato la nascita del governo Tambroni, a Saragat fu rimproverato di aver ridotto la contestazione studentesca a un problema di ordine pubblico, di Cossiga si disse che non ci stava tanto con la testa, sul carattere insofferente di Pertini sono state scritte biblioteche, perfino la popolarità di Ciampi fu scalfita dall'accusa di non aver sempre fatto da argine alle leggi vergogna di Berlusconi. Mai però in 60 anni di democrazia un capo dello Stato aveva goduto di una così totale, assoluta, cieca, muta e sorda immunità come Giorgio Napolitano. Da 6 anni sul colle siede una sorta di totem intoccabile, inviolabile e irascibile a cui rivolgere non diciamo un appunto, ma perfino la più blanda osservazione equivale a un delitto di lesa maestà. Dunque, questa è la critica di Padellaro. Mentre c'è una difesa a spada tratta del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, in prima pagina, due bersagli, anzi tre, scrive Tarquinio: si spara sul colle per colpire anche Palazzo Chigi, sapendo benissimo che si andrà a minare l'interesse del paese che postula la tenuta dei due perni del sistema politico istituzionale e di governo. Si vuole fare una sorta di piazza pulita, ma risponde a questa campagna stampa Tarquinio, il Presidente della Repubblica, che si è fatto interprete garante di speranze, di rinnovamento della politica: noi come lettori sanno ne stimiamo l'intelligenza politica, la saggezza istituzionale, gliene siamo grati e siamo contenti che abbia parlato forte e chiaro per affrontare quelli che lavorano all'operazione Piazza Pulita con ben mirate manate di fango. Non si tratta di porre persone, figure, attività istituzionali al di sopra della legge o al di sopra di ogni sospetto, ma di sventare giochi al di sotto di ogni decenza. Così Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire. Sta di fatto che, ripeto, ci saranno altre puntate. Il traffico. Allora, per la politica, Lusi è in carcere, prima notte a Rebibbia. Se volete sapere i dettagli, Repubblica con Alberto Custodero e Giovanna Vitale, intervista i parlamentari che sono andati a fargli visita, Rita Bernardini dei Radicali, nella cella con il water a vista, attendo i PM e penso agli esami di mia figlia. Questa storia durerà anni, l'accusa, cioè Lusi dice: ora parleremo e parlerò. E Francesco Rutelli, che non ha votato il giorno dell'arresto di Lusi, dice: per coerenza, non, dopo aver fatto interviste, dopo aver detto sì, deve andare in carcere, però non se l'è sentita di votare, fa un'intervista oggi al Corriere della Sera, intervistato da Andrea Garibaldi, l'intervista la trovate a pagina 15, denunci delitti che conosce, la domanda... Intanto ha mai incrociato Lusi? No, non gli rivolgo la parola dal giorno 18 gennaio quando ha confessato parte delle appropriazioni indebite dei fondi della Margherita. ma non prova umana pietà, almeno per l'uso in cella, come per chiunque perda la libertà, risponde Rutelli. Cristianamente spero gli serva a ritrovare umiltà e la coscienza dei danni colossali combinati. E alla minaccia di parlare, ma lo faccia, risponde Rutelli. Di qualunque delitto sia conoscenza avrebbe dovuto parlarne da mesi, a partire dai suoi delitti. Non si sa quanti soldi, ad esempio, abbia portato all'estero. Insomma, Rutelli che dice... ne ho parlato per mesi. E poi conferma Rutelli, comunque è vero come ha detto Lusi, ho fatto tutta una serie di chiamate per evitare il voto segreto in aula, ovviamente sì, le ho fatte, confermo, col voto segreto avremmo assistito al festival degli inganni anonimi. Vabbè, invece c'è un Berlusconi preoccupato. Cari ascoltatori, Salvatore Dama su Libero racconta che Berlusconi è preoccupato. Cosa lo preoccupa? Sì, certo, l'euro, la lira, i progetti, la campagna elettorale, il futuro, ma c'è qualcos'altro che lo preoccupa. Le spese. Berlusconi deve tirare la cinghia. Spende 100 milioni di euro l'anno, lo rivela l'agenzia AGI, racconta Libero, ed è un problema, è un serio problema che deve affrontare. 100 milioni le spese personali di Silvio Berlusconi, devo tagliare, non me lo posso più permettere, sono troppo alte. Avevo 11 palazzi, ora ne ho solo uno. Il mantenimento delle ville costa 25 milioni di euro, quello della ex moglie Veronica 12 milioni di euro, ma Silvio Berlusconi vorrebbe ridiscutere l'assegno, scrive Libero. Le ragazze rovinate dalle intercettazioni, dalle inchieste, le famose oggettine, riceverebbero un mensile di 2.500 euro al mese, insomma una tombola. E poi i soldi per il Milan, i soldi per il partito che costa 20 milioni di euro l'anno. E Berlusconi, che ha firmato fideiussioni per 85 milioni, ha chiesto ai suoi: bisogna risparmiare e tirare la cinghia. Così Silvio Berlusconi, secondo Libero. Poi vabbè, c'è stato il giallo di Matteo Renzi, ci sarebbe stato il complottone, oggi scrive l'Espresso, un progetto di Berlusconi per mettere Renzi, che è del PD ma col quale strizza l'occhio, insomma un pochino gli piace, a Palazzo Chigi, per poi lui stesso Berlusconi andare al Quirinale. Pare insomma una bufala. Ieri poi alla Zanzara Cruciani ha intervistato l'autore di questo memorandum, di questo progetto. Renzi prima si è arrabbiato, poi ha risposto su Twitter così: sì, un dossier che è vero, esiste questo piano, l'hanno firmato Verdini, Dell'Utri, Luciano Moggi, Licio Gelli, Jack lo Squartatore e Capitan Uncino. Ecco, questa è la risposta di Matteo Renzi sul dossier pubblicato oggi da L'Espresso. Mentre che ti combina Pizzarotti, il sindaco di Parma del Movimento 5 Stelle, non è ancora riuscito a fare la giunta completa, invece ha nominato un assessore, solo che questo assessore è durato 24 ore, perché assessore all'urbanistica tale Roberto Bruni, appena nominato la rete si è scatenata, dice: ma come, Roberto Bruni hai nominato, uno che ha un fallimento alle spalle, con tante famiglie lasciate sul lastrico? Pare che Pizzarotti avesse un diavolo per capello ieri, ma come, il Movimento 5 Stelle, quelli della trasparenza che non si possono più permettere le nomine vecchie eccetera, pare che questo assessore nel curriculum non avesse segnalato questo fallimento in passato, è stato silurato nel giro di 24 ore. La giunta slow di Pizzarotti perde un pezzo, Francesco Alberti sul Corriere a pagina 11, ma anche La Stampa. Parma, c'è un fallimento dietro il nuovo assessore Franco Giubilei. Era responsabile dell'urbanistica il sindaco Grillino, ma ieri si è dimesso. Chiudo, ho pochi secondi, riguardo alle nomine Rai, ne parliamo anche alle 8:20 con Davide Caparini della Lega. Sapete che è candidato al CDA della Rai l'ex PM Colombo, Gerardo Colombo, che però ha un piccolo problema con la Rai, racconta Franco Bechis su Libero. C'ha una vecchia richiesta di risarcimento danni per diffamazione che risale al 2005. Gerardo Colombo ha chiesto alla Rai 500.000 euro di risarcimento danni. L'ex PM Colombo avvisa la Rai: se mi eleggete, via la querela. Colombo l'ha scritto nel curriculum a dovere di informazione. Vi avviso che però pende da anni una causa civile tra il sottoscritto e la Rai. La domanda attiene a un caso di diffamazione, eccetera. E Franco Bechis scrive: nel curriculum spunta una richiesta da 500.000 euro, ma lui promette: se mi eleggete consigliere, la ritiro. Il giornale radio.